Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Una sera di tanti anni fa, durante una trasmissione televisiva, a un giornalista che gli chiedeva dove stesse andando il mondo e che futuro potevamo aspettarci, Pierpaolo Pasolini rispose: non c'è più niente da fare. E i suoi occhi diedero a quelle parole una forza agghiacciante. Allora non c'era stato l'11 settembre, la guerra in Iraq, in Afghanistan, in Ruanda, in Darfur. Non c'erano i bombardamenti in Libano, gli attentati in Israele, l'invasione e la distruzione della Cecenia. Non c'erano l'intifada, la guerra nel Golfo, il conflitto nei Balcani, non c'erano i kamikaze. Chissà che cosa risponderebbe Pasolini se gli ponessero oggi identica domanda. Chissà come spiegherebbe perché durante un conflitto muoiono quasi sempre quelli che la guerra non l'hanno voluta o non ne hanno capito le ragioni. Quelli che non possono opporsi perché sono troppo giovani per dire basta o troppo vecchi per scappare. Chissà che parole troverebbe per consolare chi si è salvato da una granata o da una mina antiuomo, ma ha perso un figlio. Morti che respirano, ma pur sempre morti, senza pace, anche quando la guerra sarà finita. E allora moltiplicate per 10 le vittime innocenti che i conti ci forniscono sempre per difetto. Forse Pasolini non farebbe distinzioni fra vittime innocenti e vittime colpevoli, perché le vittime sono vittime e basta. Moltiplicate per 10. Non c'è più niente da fare? Forse no, forse però. Restare aggrappati ostinatamente a un piccolo forse? Ma poi, oltre alla guerra abbiamo inventato i semafori perché ci dicano come, se e quando muoverci. Li abbiamo inventati noi i semafori, mica gli struzzi o i merli che non ne hanno bisogno. Mai visto un semaforo nella savana. Prima passano i rinoceronti e poi attraversano le zebre. Abbiamo inventato la polizia per farci arrestare, le bombe per disintegrarci, i cellulari per isolarci, la pena di morte per farci giustiziare e i re per farci sudditi. Siamo stati noi a inventare la bomba atomica per atomizzarci, mica i cinghiali. E allora il piccolo forse si fa ancora più forse più piccolo, ma respira ancora. Dove stiamo andando? Chissà che cosa risponderebbe oggi Pierpaolo Pasolini. Ma non c'è più Pierpaolo Pasolini. Anche lui è stato vittima, innocente. Se fosse ancora vivo, forse, probabilmente, si avvarrebbe della facoltà di non rispondere. Moltiplicate per 10. Thank you. Gli ascoltatori, quelli fedeli di Eclettica, hanno già capito che la seconda parte di quest'oggi si è aperta con I Viaggi Perduti dei CD del Manifesto, una terra diversa, quella dei Viaggi Perduti, che siamo andati a toccare quest'oggi dopo quelle toccate nelle settimane scorse. Quella di quest'oggi è stata il Libano, una prima parte affidata ad un attore che interpreta, la seconda ad un musicista che descrive il viaggio perduto. Adolfo Margiotta con Moltiplicate per 10, poi Radio Dervish con Ave Maria. Giulio Caperdoni in vostra compagnia come tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, che lascia lo spazio a Imani Coppola. Imani Francesca Coppola proviene da New York, magari qualcuno se la ricorda con un suo hit del 1997, Legend of a Cowgirl, che si notava per il sample di Sunshine Superman di Donovan. Lei ha pubblicato, autoprodotto, un album dal titolo Black and White Album ad inizio 2007, poi questo disco è stato ripreso dalla Ipecac Recordings e ripubblicato nel mese di novembre. Da quel disco andiamo a prendere Raindrops from the Sun. Yesterday was kinda like the 4th of July, the way your face lit up the entire sky. Had to look away because it hurt my eyes, the way you hit me was a big surprise. Yesterday I really didn't know what to say, I wasn't making any sense but it felt okay. Ask you if it was my birthday, this kind of thing don't happen every day. La bomba esplode alle 16.37. Lui, secondo amici, conoscenti e avventori, è al bar Fabiani, situato nei pressi della sua abitazione di via Preneste, zona San Siro. Mario Magni, detto Marietto, pensionato, addirittura dice di aver giocato a carte con lui dalle 15 alle 17.30. Sono sicuro di quello che dico. Da quando sono in pensione mi segno tutto e la mia giornata è calibrata come un orologio. Gli ho vinto anche dei soldi, dice Marietto. Questa testimonianza è avallata da 5 clienti, tra cui 2 agenti di pubblica sicurezza. Almeno la loro testimonianza darà sicurezza. Ore 22 di lunedì 15 dicembre 1969. Sono circa 75 ore, minuto più, minuto meno, che è sequestrato in questura. Perché? Gian Giacomo Feltrinelli, editore di Sinistra, con le sue pericolose collane di libri, opuscoli a buon mercato, in cui si predica la guerriglia e il creare molti Vietnam e la profezia della minaccia di imporre un regime autoritario qui, in Italia. Per gli avversari, dimostrare che Feltrinelli è un estremista assassino di fatto, oltre che sui libri, significa spazzare via un pericoloso e incomodo editore e i seguaci delle sue pubblicazioni. Pensate che nei giorni successivi il solito questore Guida dice che Feltrinelli è tra i possibili responsabili della strage. Il giorno dopo, e cioè il 19 dicembre, il solito giudice Amati fa perquisire il suo studio. Il Ministero degli Interni gli ritira il passaporto, ma lui è all'estero da tempo. E i soliti giornali borghesi, quelli della catena Monti per intenderci, creano senza mezzi termini la figura dell'editore Dinamitardo, finanziatore degli anarchici. Questo era ancora Tra pochi giorni è Natale, di Antonio Carletti. Son! Hey! I just told you that even a baby can handle this weapon. Surely you're not afraid to try something that a baby could do. Hey, I'm not afraid of nothing. Oh, come on, man. Let's just step up here like a baby. Now, Amy, what you do is you just ease that hammer back there and squeeze off around. No. Right on out there and be real smooth. That's the way you do it. Oh, God. Listen, can I try that again? Yeah, go ahead. Hey, just tell me one thing. Where'd you learn to shoot like this? 7-Eleven. L'accoppiata Feltrinelli Anarchici è stata scelta e Pino deve dire quello che si aspettano da lui, perché è un test credibilissimo per la sua insospettabilità, per il rifiuto alla violenza che ha sempre manifestato, perché è autorevole tra gli anarchici. In più è ritenuto emotivo, che si può facilmente terrorizzare, e ingenuo. Nelle 75 ore in cui è detenuto usano di base questo schema: intimidirlo, il tuo alibi è caduto, fiaccarlo. Non lo lasciano dormire, mangia poco, è sempre sotto pressione. Impaurirlo, facendogli credere di essere coinvolto tra gli autori della strage. Pinelli resiste. Ore 22 del 15 dicembre 1969. Adesso comincia l'interrogatorio fatale. Gli viene contestato tutto, fatti, nomi, circostanze. Ma un interrogatorio del genere è una lama a doppio taglio. Per chiedere bisogna dire, e Pinelli capisce che lo vogliono far cadere in un tranello, intuisce, grazie alle circostanze contestate, la funzione di provocatore svolta da qualcuno che si è infiltrato nel suo gruppo. Coglie il legame che c'è tra il provocatore e chi lo sta interrogando. E allora parla, minaccia, chiede che certi nomi, certe sue affermazioni siano messe a verbale. Fra chi lo interroga, non tutti hanno capito quello che Pinelli ha capito, ma alcuni di loro sì. Allora parte, fra i tanti, quel colpo decisivo che lo fa stramazzare sulla sedia, gli fa perdere i sensi. Sta male. Forse adesso chiamano l'ambulanza, ma non c'è tempo, ha bisogno d'aria. Bisogna avvicinarlo alla finestra, appoggiare il suo corpo inanimato alla sbarra di ferro trasversale. Bassa, troppo bassa. Non trattiene Pino. Pino scivola giù, nel vuoto. Questo era ancora Tra pochi giorni è Natale, di Antonio Carletti. Oh, Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 8, volume numero 1, Indice, Paolo Benvenu, The Early Years, Red Worms Farm, Queen Walker, Hugh Riots, Robbers on High Street, Adolfo Margiotta, Radio Dervish, Imani Coppola, The Go Station, The Body Rebels, After Clan. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.